Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi Destini incrociati è in Italia, precisamente a Roma. È il 22 maggio del 1970 e i carabinieri hanno appena arrestato due personaggi di spicco della TV italiana con l'accusa di detenzione e spaccio di droga. Il destino, dopo quel fatto, porta le carriere dei nostri due protagonisti verso una nuova dimensione. Ma tutto ha inizio nell'Italia dell'immediato dopoguerra. Tutto comincia in un'Italia che ancora non si rende conto di essere uscita dalla guerra. Terminati gli incubi dei bombardamenti, dei massacri, con l'entusiasmo per la liberazione, il paese ricomincia a vivere. Il sorriso riappare sul volto di tutti. L'intrattenimento è quasi una necessità sociale. C'è voglia di ridere e per dimenticare il ballo e la musica sono certamente il miglior antidoto spirituale. In tutte le città italiane, soprattutto quelle del centro-nord, che hanno subito la dura repressione nazifascista, si comincia a danzare. Si balla nelle strade, sulle terrazze, sotto le pergole, tra le macerie delle case distrutte. Chiunque sia in grado di suonare uno strumento è ingaggiato dall'orchestra del posto e comincia a fare serate. La musica più nuova è quella lasciata in eredità dalle truppe americane e dai loro V-Disc. V-Disc è l'abbreviazione di Victory Disc, ovvero dischi della vittoria, ed è l'etichetta discografica nata per la produzione di dischi con incise le canzoni e le melodie che accompagnano le truppe americane in guerra. Si tratta di Frank Sinatra, Glenn Miller e di tutti gli artisti più in voga negli anni 40 che fanno da colonna sonora alle feste da ballo di ogni grande o piccola città della penisola. Una storia particolare ha la città di Trieste, che risente pesantemente dell'influsso del jazz e dello swing. La musica americana si suona nei caffè e nei locali della città mitteleuropea, che fino al 1954 non entra a far parte dell'Italia. Il jazz sembra essere la musica migliore per tradurre il fermento culturale e politico, con le sue contraddizioni, dell'ex città jugoslava. Il triestino Vladimiro Miletti, ultimo dei grandi futuristi, nel suo poema Aria di jazz, Parole in libertà, scrive: «Ascolta il jazz, mio lettore. Seguimi. Ci arrampicheremo sulle pertiche della sua sfrenata allegria. Io lo inseguirò per te. Ma ecco i quattro colpi che danno il via». Trieste è la città del jazz non solo come musica, ma come nuovo modo di guardare alla vita. La città dà i natali a molti talenti, scrittori del calibro di Italo Svevo, ma anche a musicisti di cui si parla poco o nulla, come il trombettista Astore Pittana, ammiratore di Louis Armstrong e primo ad utilizzare la tecnica del no pressure, che consiste nel non premere l'imboccatura dello strumento sulle labbra per poter suonare note fuori registro. Non dimentichiamo l'orchestra di Guido Cergoli, che dal 1935 suona da Radio Trieste, o il batterista Angelo Bartone, e ancora Ferruccio Merk, in arte Teddy Reno. Per tutti gli anni 30 in città sono aperte almeno 8 sale da ballo e 6 fra ristoranti e caffè, dove suonano complessi formati da 3 a 8-10 musicisti. In questo clima muove i primi passi Lelio Luttazzi. Lelio Luttazzi, classe 1923. Mia mamma decise di farmi studiare il pianoforte perché mio papà pare che, insomma, prima di andarsene, poverino, le abbia detto che gli sarebbe piaciuto che io studiassi musica, ecco. E così venni qua e Don Crisman mi fece leggere, come si chiamano, Rossomandi, Cerny, i primi studi. Lì così imparai a leggere la musica che poi mi servì molto più tardi. E Don Crisman aveva il difetto di picchiarmi, di picchiettarmi le mani con una bacchetta quando sbagliavo. Non sempre, ma ogni tanto tac tac, perciò non mi andava tanto. E a un certo momento, insomma, decisi che non potevo più andare avanti e feci decidere mia mamma che non era il caso di andare avanti, anche se lei nel frattempo mi aveva comprato un pianino vecchio di seconda mano per 2000 lire con le candele, stonato abbastanza e con dei tasti che facevano tic tic tic invece della nota. Da allora cominciai a strimpellare e subito dopo cominciai a strimpellare a orecchio, male ma a orecchio, le canzonette, la musica di quel tempo. Lelio rimane orfano molto presto. La madre, maestra elementare, con la quale avrà un rapporto conflittuale sin da giovane per via delle differenti ideologie politiche, cerca di esaudire le ultime volontà del marito mandando il figlio a scuola di piano. Anche se all'inizio sembra non essere la strada giusta, la storia dà ragione alla lungimiranza paterna, che probabilmente aveva scorto nel piccolo Lelio il talento. Lelio, nel periodo del liceo, comincia a suonare con qualche compagno di scuola alle feste private, dove protagoniste sono sempre canzoni americane, suonate con quello swing che si sente alla radio o che si vede al cinema e che ormai sembra essere il leitmotiv della sua adolescenza. Tornavo a casa dopo aver visto un film tipo Follie di Broadway 36 o 39, e mi ricordo con Robert Taylor e Eleanor Powell. Uno che ballava il campione, questa cosa, e a casa, e c'erano tre motivi fondamentali che io mi ricordavo. Arrivavo a casa, mi mettevo il piano e li suonavo tutti. A volte alla melodia americana si aggiungono le parole, si raccontano storie. Il più delle volte storie divertenti per far dimenticare le brutture della guerra. Il motivo antifascista va per la maggiore. In quegli anni i musicisti italiani, quelli che amano il jazz e la musica swing, sono costretti a camuffarla per non disperdere il patrimonio americano. L'espediente più semplice è di addolcire le melodie ed eliminare le armonie troppo spinte. A Lelio, che con quelle melodie ci è cresciuto, viene facile e lo fa suonando in giro. Nel 1940 avviene una prima svolta nella sua vita. Nel 1940, io avevo 18 anni, ero matricola, quindi è successo che organizzarono uno spettacolo studentesco fatto da studenti e incoscientemente diedero l'incarico di dirigere l'orchestra in buca a me e poi di accompagnare con un quartetto sul palcoscenico il cantante Ernesto Bonino, che erano dei miei preferiti assieme a Nazzarino Otto e a Alberto Labagliati. Bonino, dopo lo spettacolo, sentendo che io swingavo, mi chiese di fargli una canzone perché lui l'avrebbe eseguita con l'orchestra del Cora Cora diretta da Alberto Semprini in giro per l'Italia. Beh, dopo una settimana mi arrivò un telegramma e diceva canzone varata a Biella, successo ottimo, tuo Ernesto. Persi completamente la testa. La canzone è Il giovanotto matto, canzone scritta quasi per gioco da Lelio in spiaggia sul libro di diritto privato. Il telegramma inviato dal cantante Ernesto Bonino per il successo avuto fa cambiare rotta a Lelio, che decide di abbandonare l'università per iniziare la sua carriera di musicista. Alla fine della guerra gli arrivano 350.000 lire dalla SIAE per i diritti d'autore. Quei soldi sono il giusto riconoscimento per un talento appena nato. Il 25enne Luttazzi partecipa all'entusiasmo generale del paese che esce dalla guerra. Entusiasmo che si mescola a quello personale per il suo primo assaggio di successo per la canzone Il giovanotto matto. In attesa di poter andare via da Trieste per seguire la sua strada di musicista, suona in un'orchestra di 7 elementi e presenzia alle feste degli ufficiali americani all'Hotel della Villa. In una di queste serate, a un certo punto, avviene un altro incontro fortunato. E nel frattempo, a un certo momento, dunque era il 47, arrivò un ragazzo che io non conoscevo ancora. Si chiamava Ferruccio Ricordi. Ricordi perché suo padre era un baronetto Merck von Merkenstein. Merck la pietra, Merken i ricordi, quindi trattavo anche i ricordi. Suo padre era stato direttore della Rigoni di, non so se capo di Istria, insomma dell'Istria, con l'avvento di Tito, eccetera, e a Fuga e a Trieste. E col capitale suo padre aveva deciso di fondare una casa di dischi, dato che questo suo figlio, Ferruccio Ricordi, aveva una bellissima voce. E quindi ecco un regalo per il figlio e per tutti quanti un bel vantaggio. E insomma, dopo pochi mesi io l'ho seguito e sono andato a Milano. Sono diventato direttore artistico, ma ho fatto centinaia di arrangiamenti, ma quasi due al giorno. L'etichetta discografica in questione è la CGD, la Compagnia Generale del Disco, che diventa una delle etichette italiane più prestigiose per la presenza del suo proprietario, Ferruccio, in arte Teddy Reno, e del suo direttore artistico, Lelio Luttazzi. Lelio si trasferisce a Milano. Con Teddy Reno, fra il 48 e il 53, Luttazzi realizza un imponente numero di incisioni, accompagnando la voce dell'amico che si ispira a Frank Sinatra. Il repertorio Reno-Luttazzi fa il giro d'Italia, finché da Torino non arriva la proposta di seguire un programma radiofonico sponsorizzato dalla CGD e condotto da Lelio. Il successo ottenuto da Radio Torino è il biglietto da visita per la RAI. A dicembre del 1953 gli viene affidata la direzione delle orchestre dalla RAI per il programma Nati per la Musica, in cui vecchi motivi vengono arrangiati in chiave moderna. È solo il primo dei tanti programmi radiofonici. Sono gli anni d'oro della radio. Mentre a Milano fa arrangiamenti per diverse musiche. Lui, che non aveva studiato né armonia, né aveva seguito corsi per arrangiatori. Suonando il piano, naturalmente, si fanno gli accordi a orecchio, ma si cerca di farli giusti, insomma. E allora poi mi sono un po' informato. Per esempio, io ho un amico fraterno che si chiama Gianni Ferio, ma il direttore d'orchestra tutti lo conoscono. Il quale ha continuato a incidere i dischi con Teddy Reno quando io sono andato via dalla CGD e mi sono trasferito a Roma. E a lui ogni tanto chiedevo per esempio la viola, in che, come si scrive il fagotto, come si scrive l'arpa, gli archi erano facili, insomma, e così, e lui mi informava. E io e poi mi applicavo quello che provavo così a armonizzare sul pianoforte, piano piano, e poi è andata bene. Scrive anche le musiche per il teatro di rivista. Lelio è infaticabile, il paese è infaticabile dal punto di vista artistico. Gli ambienti che gli artisti frequentano sono pressoché gli stessi. Lelio ha un carattere schivo, ma nonostante questo frequenta con piacere l'ambiente artistico e culturale del capoluogo lombardo. Lontano dalla sua Trieste, ha bisogno di circondarsi di persone che lo facciano sentire a casa, instaurando rapporti di lavoro ma anche di amicizia. Tra questi c'è un giovane attore milanese col quale collabora per qualche rivista, come Io e la Margherita, che con Lelio condivide la stessa vitalità e ironia, in un percorso che dalla Seconda Guerra Mondiale arriva sino agli anni 70 indisturbato. Il suo nome è Walter Chiari. Walter Chiari. Le cose che Walter e Lelio hanno in comune apparentemente non sono molte. In realtà si piacciono fin da subito. Figli entrambi di maestre elementari, nascono con la nascita del fascismo e vivono perciò il clima tragico di quegli anni. Tragicità che riescono a trasformare, grazie ad un grande talento, in risata, intrattenimento. Uno lo fa soprattutto come musicista, l'altro principalmente come attore. Ma chi è Walter quando incontra Lelio? Walter Annichiarico nasce a Verona il 2 marzo del 1924 da genitori pugliesi. Si trasferisce ancora ragazzo a Milano, dove inizia a praticare diversi sport, tra questi il pugilato, diventando anche campione lombardo della categoria pesi piuma nel 1939. Lo sport è la sua passione. Pratica anche il nuoto a livello agonistico, ma nella vita vuole fare altro. Quando è il momento di iscriversi all'università, scoppia la Seconda Guerra Mondiale, quindi rinuncia. Istrionico, di grande compagnia, esuberante con gli amici e con le donne, una sera del 1944 si trova al Teatro Olimpia di Milano. L'attore comico è malato, quindi si invitano a salire sul palco i presenti per cimentarsi in qualche gag. Gli amici incitano Walter a salire e a esibirsi con uno dei suoi pezzi forti, quelli che fino ad allora aveva regalato solo a pochi intimi nelle serate al bar. Il suo carattere è aperto, pronto alla battuta, con questo fisico atletico che lo supporta in ogni posa buffa. E oltre alla mimica facciale incredibile, l'utilizzo del linguaggio è decisamente notevole. Non ci pensa due volte a salire sul palco. Noncurante del periodo storico, regala al pubblico in sala l'imitazione di Hitler, quasi un Charlie Chaplin ante litteram, e racconta la barzelletta del balbuziente. Scusi, signore, per favore, mi può dire dove è Corso Garibaldi? Come? Per favore, mi può dire dov'è Corso Garibaldi? Corso Garibaldi? Scusi, lei non è di Milano. No, no, guardi, io sono pugliese, sono arrivato in questo momento e vorrei sapere dove è Corso Garibaldi, che non sono mai stato a Milano. Ah, ho capito, e lo viene a domandare proprio... C'è un piazzale, siamo qui, 80.000, e lei sceglie me per domandarmi dov'è Garibaldi. È subito un grande successo. Non solo gli amici applaudono, ma tutta la platea del Teatro Olimpia. È un po' come se fosse un battesimo, stare sul palco gli piace. Far ridere la gente pure. Improvvisare, fra le altre cose, gli riesce benissimo. E poi è un bel ragazzo, il che non guasta. Da quel 1944 comincia, per Walter, una nuova vita. Ha le idee un po' più chiare su cosa fare da grande. Il campione lombardo dei pesi piuma fa il ragazzone che ha trovato la sua strada e, visto l'ambiente, si lascia anche sedurre dalla soubrette. Marisa Maresca, una delle reginette emergenti dell'avanspettacolo del tempo, lo vede e lo scrittura subito. Gli offre il nome in ditta, le sue prime luci al neon tra le nebbie del dopoguerra. Anni Chiarico, per esigenza di spazio sulle locandine, diventa Chiari. Meno complicato da ricordare e in un certo senso più in linea col suo carattere solare. Comincia così il suo impegno nel teatro di rivista. Dopo quella prima notte al Teatro Olimpia, sembra che per Walter tutto debba arrivare in fretta, subito. Nella vita professionale come in quella privata, tutto si consuma in un istante. Ed è in questo fermento che conosce l'elio. Mi faccio sei uova alla coc e come una belva del rain ti sforno quintali di swing sperando di darti lo shock che forse è proprio così scema mi dirai di sì. Walter è un comico in grado di chiacchierare per ore dalla passerella col pubblico. Un comico nel senso più moderno del termine, capace di far ridere anche senza smorfie e senza maschera, capace di una dialettica intelligente e di un portamento elegante. Con lui si inaugura un nuovo modo di far ridere. Negli anni 50 comincia la scalata al teatro di rivista. Ne rivoluziona gli schemi e anche i contenuti, con generosità ed entusiasmo. La stessa generosità ed entusiasmo che mette nella vita privata. La noia è la sua grande nemica e tutta la vita cerca di sconfiggerla a suon di colpi di scena, soprattutto in amore. Nel 1951, sul set di un film di Mario Soldati, E l'amore che li rovina, conosce una giovanissima Lucia Bosè e subito se ne innamora. La storia d'amore appassiona gli italiani, piace a tutti, sia alle giovani donne che alle mamme. Gli spunti per i rotocalchi rosa sono infiniti, ed è solo l'inizio. L'ex pugile figlio di immigrati e la ex commessa di pasticceria, nonché Miss Italia, si amano. Gli anni 50 sono anche questo, finché non si inserisce tra di loro un torero, Luis Miguel Dominguín, che proprio in quel periodo frequenta una splendida Ava Gardner, ancora signora Sinatra, ma momentaneamente separata. Eva Gardner, proprio lei. Da Singapore a Ciampino, sta facendo dal vero il giro del mondo. È il 1955 e Ava è a Roma per girare La Contessa Scalza. A Cinecittà c'è anche Walter Chiari. L'occasione che si presenta è ghiotta per uno che ama l'avventura come Walter. Comincia così una relazione tempestosa tra Walter e Ava, che dura 4 anni e che lo porterà a farsi conoscere a livello internazionale, a fare amicizie importanti come quella con Hemingway o Orson Welles, col quale girerà anche un film, e a frequentare un certo ambiente assolutamente in linea con il suo carattere. In un certo senso, grazie alla relazione con la Gardner, la sua dimensione passa da quella di attore a quella di divo. Sta facendo il suo ingresso al Palazzo del Cinema Walter Chiari. La sua faccia è conosciuta ovunque, dall'America all'Italia. Qui, New York, vi parla Ruggero Orlando. Non c'è bisogno di presentarlo. Negli anni 50 e 60, Walter è al centro della dolce vita romana. Gli si attribuiscono molte donne, lui è un rubacuori e nella sua infinita simpatia e generosità coinvolge soprattutto le colleghe di lavoro, da Anna Magnani a Mina. Finché, nel 1969, lo scapolo più ambito d'Italia sposa Alida Kelly, un'altra collega. È un matrimonio tempestoso e destinato a durare poco. Questo lato del carattere trasgressivo non è certamente vicino all'amico Lelio, più pacato, meno avvezzo alle storie da rotocalco, col quale però continua a frequentarsi al di là della vita professionale. Se a Milano sono state le prime collaborazioni per il teatro di rivista a fare da collante, a Roma è soprattutto l'amicizia a fare da traino, pur incrociandosi di nuovo negli studi televisivi o sui set dei film, o condividendo le stesse compagnie, lavorativamente parlando. Tutto è amplificato a Roma. Se Milano è la capitale dell'editoria musicale e della discografia, Roma è la capitale del cinema, della radio e della TV. E quindi di quel successo che arriva in fretta e si consuma altrettanto in fretta. Essere riconosciuti per strada, per Walter, è la regola. Per Lelio non è proprio la stessa cosa. Il successo per lui ha toni più miti. Entra nelle case con le sue melodie, non a suon di scandali o battute. Il suo ingresso nella vita degli italiani è più sussurrato rispetto all'amico. Eppure la gente per strada canta le sue canzoni. L'unica volta che io ho sentito fischiare in strada una mia canzone è stata a Capri, e la canzone era Vecchia America. Vecchia America dei tempi di Rodolfo Valentino, quando al Jolson canticchiare Frank Sinatra era bambino, quando Gershwin rapsodiava tutto in blu. Destini incrociati. Destini incrociati è a Roma, al seguito di un'amicizia cominciata a Milano tra il pacato Lelio Luttazzi e l'istrionico Walter Chiari. Il teatro di rivista, il cinema e infine la TV sono gli strumenti attraverso i quali i nostri protagonisti hanno costruito il loro successo. Sono gli anni più caldi, prima della battuta d'arresto dell'estate del 1970. La televisione ha fatto il suo ingresso nel paese e Walter approda alla TV negli anni 60. La sua eleganza e il suo portamento gli fanno avere subito successo. È il conduttore del sabato sera. La televisione è un luogo molto signorile e lui vi si inserisce perfettamente. È un affabulatore straordinario. Le trasmissioni che arricchisce con le sue apparizioni, rendendo tutto molto imprevedibile, sono le trasmissioni cult di quegli anni, le stesse in cui anche l'amico Lelio sperimenta. Lelio, infatti, arrivato a Roma, decide di abbandonare il mestiere di direttore d'orchestra, non solo perché è un lavoro duro, ma anche perché proprio qui si spalancano le porte per nuove opportunità professionali. Nel 1961 è l'anno di Studio 1, dove compare come cantante, ma fare il conduttore non gli dispiace. Il varietà, che prende il nome dallo Studio 1 di Via Teulada a Roma, dove viene registrato, ha da subito un grande successo in termini di gradimento, soprattutto in virtù dello stile innovativo con cui è stato congegnato dagli autori. Valicando il Genesi, senza scalo fino a qui, è arrivato già da un pa. Trampolino di lancio per numerosi artisti come Don Lurio, ideatore delle coreografie della sigla musicale della prima edizione di Dada Umpa, cantata e danzata dalle gemelle Kessler, Studio 1 è anche il luogo dove Lelio muove i primi passi nella sua nuova veste di showman al fianco della splendida Mina. A volerlo è Falqui, uno degli autori, nonché regista del programma. Abbiamo cominciato così. Poi lui ha capito che io li servivo anche perché, oltre a, vabbè, signori, Mina, questo era, però poi potevo scrivere ogni settimana un duetto con Mina, o un duetto con scrivere un balletto, scrivere fare queste cose qui, essere un po' showman. Sei? Sono un poliedrico, Mina. Ma cosa fai? Mi trasformo per il bene dell'umanità. Non senti un po' di nostalgia per tutti noi? Che c'entra? Queste sono cose affettive. Mentre Lelio si esibisce in duetto con Mina, Walter Chiari, che in TV è già un habitué, si esibisce con Carlo Campanini, la sua spalla storica, nella celebre scenetta del Sarchiapone. Non solo uno sketch comico, ma una scenetta di costume sull'italiano medio. Loro certamente conosceranno, vero, il... No, quale che non conosca il Sarchiapone americano, l'animale è quello, quello che dico, è l'animale, Walter intrattiene con la sua sagacia il bel paese dai teatri, dal cinema, dalla TV, e Lelio duetta con le gemelle Kessler in Giardino d'inverno, con la Carrà in Il paroliere, questo sconosciuto, e in Ieri e oggi e Teatro 10 con Alberto Lupo, in un divertente omaggio a Gene Kelly, dove il suo inseparabile pianoforte lo supporta. Infine, con Sylvie Vartan in doppia coppia. Ma chi sei tu, diabolica dea, che fai delirare un tipo come me. Ho una mini, una semplice mini, e tutte le mini vanno bene per te. Ma tu che vuoi? Ma tu sei bambino, non fare il cretino che ne hai 43. Una mini, una giovane mini, soltanto la mini vanno bene per me. Ormai Lelio fa quello che avrebbe sempre voluto fare: suona e canta il jazz. Fosse nato in America sarebbe stato diverso. Forse avrebbe studiato al conservatorio e sarebbe diventato come Miles Davis o Gil Evans. Ospite di Walter Chiari al Schubert Theater, aveva la sua prima in inglese, ricordo. E mi ha invitato, io sono stato con lui quasi un mese a New York, ma praticamente non sono mai uscito di casa come il mio solito. E questa è stata la mia esperienza americana, un po' delusiva, perché ormai non ero più il ragazzo sognatore di prima, quindi prima mi pensavo a vedere Times Square con quello che fumava lì, e poi i film di Fred Astaire, Ginger Rogers, per lavori mi ubriacavano, dicevo Dio l'America. Arrivando lì, la quinta è meglio Via Condotti della quinta, come raffinatezza, capisci? È un po' più volgare tutto, ecco. No, non riesco. Lelio, come l'amico Walter, vuole sperimentarsi anche al cinema, come attore. Arriva l'occasione nel 60. In una trasmissione radiofonica conosce Monica Vitti, che all'epoca è la compagna di Antonioni, e da quell'amicizia nasce la sua apparizione in L'avventura. Anche come attore, Lelio se la cava bene, molto sobrio, pacato, anche se con quella vena leggera ed umoristica che un po' lo caratterizza. Nel 65 è l'anno di Dino Risi con L'ombrellone, una versione di lusso della pura commedia balneare all'italiana, al fianco di Sandra Milo ed Enrico Maria Salerno. Walter, dal canto suo, col cinema ha sempre avuto uno strano rapporto. Nel 1946, agli esordi della sua carriera, vince un Nastro d'Argento per la sua prima interpretazione in Vanità, un ruolo drammatico. È solo nei ruoli drammatici che come attore lo si può ricordare. Nel 1950 è in Bellissima di Visconti, al fianco dell'Anna Magnani. E nel 1960 è il papà divorziato di Giovedì di Dino Risi. Eppure il cinema prende spunto da Walter e dalla sua vita. Da suoi racconti a registi dell'epoca nascono scene di alcune tra le pellicole più famose. Walter racconta all'amico Fellini di quella volta che, tornato da una cena, trova l'auto di Ava Gardner con le gomme a terra. L'attore italiano non ci pensa due volte e insegue di corsa il colpevole. Appostato in un angolo, un paparazzo riprende la scena. La dolce vita comincia proprio così. Non è l'unico esempio di elemento biografico della sua vita preso a prestito dal cinema italiano. Rocco e i suoi fratelli non è niente di più che la storia di un giovane molto bello, di una famiglia di immigrati pugliesi che fa il pugile a Milano. Le musiche, non a caso, sono di Lelio Luttazzi, praticamente la sua storia. Nel frattempo Lelio, oltre alle parentesi cinematografiche come attore e compositore, diventa la voce che tutti i giovani, all'ora di pranzo del venerdì, con replica il lunedì, ascoltano. Lelio Luttazzi presenta In ritardo rispetto all'America, dove già dal 1936 la rivista Billboard pubblica regolarmente le cosiddette charts, arriva anche in Italia, nel 66, una vetrina settimanale sui dischi più venduti. Il grido è sempre lo stesso. La tecnica è immutabile, il conto alla rovescia. Si parte dal fondo, dai cosiddetti dischi caldi, e poi si arriva sempre più in alto, fino ai fatidici primi tre posti, ovvero l'Olimpo delle classifiche discografiche. La sua voce è quella di una generazione. Tutto prosegue indisturbato nella carriera dei due amici. Si frequentano spesso. Walter con la solita carica entusiastica. Lelio divertito dall'amico, ma allo stesso tempo un po' più distaccato. L'estate del 1970, proprio mentre Lelio è all'apice del suo successo, ha in serbo per loro una vicenda che li vedrà per l'ultima volta vicini. Il 22 maggio vengono infatti arrestati con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. L'arresto avviene in seguito all'intercettazione di una telefonata tra i due. Con loro anche un altro personaggio dell'epoca, Franco Califano, che ricorda così l'amico Walter. questo mio modo di vivere, questo nostro modo di vivere, anche trasgressione, trasgressione nel senso che facciamo come ci pareva. Abbiamo vissuto tutte e due una vita molto nervosa, nervosamente e freneticamente, come si vive, come si dovrebbe vivere la vita. Oggi bisogna sempre essere seri, sempre sembrare incazzati. Lelio è assolutamente estraneo alla vicenda. Quell'amicizia, quella vita vissuta con il piede sull'acceleratore dell'amico Walter che tanto lo divertiva, lo portano adesso ad essere coinvolto in una faccenda che in realtà non lo riguarda. Lui è sempre lo stesso, quello che ama lo swing, il jazz, che al massimo può bere un bicchiere di vino in più quando vuole divertirsi, ma la droga proprio non è un mondo che gli appartiene. Trieste mia, che nostalgia, migo lontano de ti. Destini incrociati. A Destini incrociati oggi siamo a Roma. È il 22 maggio del 1970. Walter Chiari e Lelio Luttazzi sono stati arrestati con l'accusa di spaccio e detenzione di stupefacenti. La carriera dei due è all'apice. Ma dopo quella vicenda che li coinvolge entrambi, pur essendone Lelio totalmente estraneo, li porterà ad allontanarsi dalle scene e porterà anche alla fine di un'amicizia. L'estate del 1970 non è un'estate tranquilla sotto tutti i punti di vista. Cominciata con l'arresto per droga di Walter Chiari e Lelio Luttazzi, prosegue con le dimissioni del governo. Il bel paese si sta preparando agli anni di piombo, è finito il periodo della leggerezza degli anni 60. In tutto il paese ci sono scioperi ed episodi di violenza a non finire. I partiti sono contestati in blocco e nelle piazze per protesta si bruciano giornali come L'Unità e Il Secolo d'Italia. Lo slogan che caratterizza questa rivolta farà epoca: boia chi molla. Qualcuno sostiene che l'Italia avesse bisogno di una vittima sacrificale per distogliere l'attenzione dalle magagne politiche del tempo. E chi meglio di un uomo in vista, di successo, con una vita sregolata come Walter Chiari, poteva incarnare il capro espiatorio? La spettacolarizzazione dell'arresto è clamorosa. Prende la prima pagina di tutti i quotidiani e settimanali italiani. I giudici arrivano alla convinzione che in 25 anni di carriera Luttazzi e Chiari hanno in realtà lungamente camuffato quella di trafficanti di droga. Alla fine cadono le accuse di traffico e cessione di stupefacenti, ma rimane in piedi quella di uso personale. Il 21 giugno Luttazzi viene scarcerato. Anche Chiari spera di poter uscire, ma il giudice si oppone alla richiesta di libertà provvisoria. Sono passati 100 giorni dall'arresto di Walter Chiari. Fuori dal carcere romano di Regina Coeli è già arrivata la notizia che la Procura della Repubblica non ha impugnato la concessione della libertà provvisoria. Centinaia di fotoreporter e cineoperatori, corrispondenti di tutti i giornali e cinegiornali del mondo, assediano da 3 giorni la triste e antica costruzione della Lungara. Guardie di pubblica sicurezza e agenti di custodia protengono Walter dalla soffocante morsa umana che si stringe sempre più paurosamente intorno al protagonista di una tipica vicenda del nostro tempo, il quale ha la fortuna o la sfortuna di essere il personaggio forse più amato e simpatico del teatro leggero italiano. L'8 giugno Alida Kelly, compagna di Chiari, dà alla luce un bambino, Simone. Venerdì 28 agosto alle ore 14, una folla di fotografi tiene d'occhio la porta della casa circondariale romana perché appena si aprirà ne uscirà Walter Chiari. Dopo 100 giorni di detenzione, Walter ha riabbracciato la moglie e ha finalmente conosciuto il figlio nato durante la detenzione. La vicenda non è affatto conclusa e Walter, anche se tornerà, come afferma, al lavoro, non può dimenticare che le sue peripezie giudiziarie non sono finite. Chiari è condannato a 2 anni di galera, ma non torna in carcere. Il pubblico comunque è sempre dalla sua parte. La Rai gli riapre le porte. Chi invece ne esce male e veramente deluso è Luttazzi. Sulla vicenda scrive anche un libro, Operazione Montecristo. Non c'è nessuno che gli dia sostegno. Tutta l'attenzione è calamitata su Walter Chiari, che riesce a trasformare in show anche un fatto di cronaca come questo. Per chi è invece più schivo, come Luttazzi, c'è una sorta di rigetto. Sicuramente fa meno notizia lui rispetto al vulcanico a Torre Lombardo, con un figlio appena nato che amplifica il tutto. Il noto presentatore di Studio 1, di Ieri e Oggi, di Doppia Coppia, il direttore d'orchestra e l'eccellente musicista, compositore di Vecchia America, Souvenir d'Italie e Una zebra a Poix, solo per citarne alcune, accusa il colpo e subisce un totale rifiuto verso il mondo dello spettacolo, ritirandosi a vita privata, amareggiato anche dalla lapidazione mediatica a cui è stato sottoposto. Una zebra a Poix, beh, che c'è? A Poix, a Poix, a Poix, una zebra a Poix. È una grande Lelio, vittima di un errore giudiziario, sparisce dalle scene dopo quell'arresto. Difficile per uno col suo carattere riprendersi, non solo perché deluso dallo show business che lo ostracizza, ma anche per l'atteggiamento dell'amico, che dopo averlo coinvolto suo malgrado in una faccenda di droga, sparisce dalla sua vita. Né una telefonata né un chiarimento. Forse è troppo difficile ricucire uno strappo così grande per pudore, per vergogna. Solo nel 1982 il maestro Luttazzi accetta di tornare, anche se dietro le quinte, componendo la musica per una trasmissione di Rete 4, Cipria, presentata da Enzo Tortora, un altro che di lì a poco sarebbe stato vittima di un errore giudiziario. Il vero sdoganamento della sua innocenza avviene nel 1984 ad opera di un amico, nonché ammiratore. Renzo Arbore. Beh, dopo esserne stato per tanto tempo ammiratore, quando ero un ragazzo di Foggia e vedeva la televisione Moderato Swing, vedevo suonare delle Luttazzi, una musica che era molto vicina alla musica che piaceva a me, e ancora molto vicina alla musica che piace a me, il jazz di Armstrong, lo swing, Errol Garner, eccetera. Io poi finalmente, quando sono venuto a Roma, ho avuto il piacere di conoscerlo e perfino di suonarci insieme alcune sere, poco prima che succedesse l'incidente che poi lo portò in carcere, quel terribile incidente che poi io ho contribuito a far dimenticare alla gente, perché quando successe quella storia, innanzitutto io sostituì Lelio Luttazzi alla Hit Parade, però ancora nessuno mi diceva che cosa era capitato a Luttazzi, mi dicevano soltanto che stava ammalato a casa. Quindi ne ho parlato con lui, naturalmente essendo sicuro, oltretutto perché lo frequentavo, essendo sicuro che lui non c'entrava niente con la storia della droga. Tutto più a Lelio piaceva un attimo bere un whisky di più, ma è proprio una cosa che facevamo tutti e che facciamo ancora qualcuno. Quando poi ho avuto modo nell'84 di fare un programma televisivo che si chiamava Cari Amici Vicini e Lontani, che faceva ben 14 milioni di telespettatori su Rai 1, dedicati ai 60 anni della radio, io allora invitai Lelio Luttazzi e pubblicamente dissi che assolutamente il maestro Lelio Luttazzi era assolutamente innocente, incolpevole di qualsiasi guaio che gli avesse combinato quel suo amico. Walter nel frattempo sconta la sua pena, ma anche lui non è più lo stesso. Sono lontani i giorni delle sue vicende amorose che occupavano i rotocalchi rosa, i suoi successi in TV con Canzonissima, le gag che hanno fatto la storia del cabaret in Italia. Anche per lui la vita cambia, quella professionale, ma anche quella personale. C'è una sorta di pudore nel raccontare l'accaduto, anche se come al solito cerca di riderci sopra. Allora, quel suo amico che ho detto prima era Walter Chiari, peraltro simpatico, straordinario, grandissimo artista che tutti rimpiangiamo. Avendo quel vizietto, eccetera, Walter Chiari aveva combinato proprio un grosso guaio. Devo dire che quella sera che fu arrestato Walter doveva venire in una mia trasmissione, si chiamava Speciale per voi, e la registravo a Roma e lo aspettavo con tutte le telecamere accese, con il pubblico impaziente eccetera, ma lui non arrivò finché mi dissero: guardi, non può venire, non si sa dove sia, eccetera. Quindi io addirittura lo catechizzai attraverso la telecamera dicendo: Walter Chiari è molto simpatico, però certe cose non deve fare, non può essere assente dal non venire in una trasmissione alla quale ha garantito di partecipare. Insomma, questo fu l'incidente. Poi seppi tutto quello che era successo e l'ho rivisto poi tanti anni dopo, quando finalmente, tanto tempo dopo, quando poi è uscito dal carcere. Allora andai a trovarlo al Teatro Brancaccio, dove facevo uno spettacolo, e lui fu anche molto spiritoso nel chiedermi scusa di questa assenza e mi raccontò un po' la vicenda. Per Walter una nuova occasione in TV arriva nel 1973 con l'appuntamento al fianco di Ornella Vanoni, ma ormai sono gli anni 70, i giovani non ridono più del suo modo leggero di condurre la TV, la qualità dei tempi d'oro è perduta, il reinserimento è durissimo. Piano piano la sua brillantezza scema e così le occasioni che gli capitano. La malinconia e l'amarezza e addirittura l'autodistruzione sono inarrestabili. Nel 1983 torna al cinema con Romance di Massimo Mazzucco, film che approda a Venezia. Ci sono le premesse per un premio, ma alla fine va a Carlo Delle Piane per Regalo di Natale. Il 21 dicembre del 1991 Walter ci lascia. Sulla lapide fa scrivere l'ultima grande battuta per chiudere in bellezza la sua vita vissuta sempre al massimo. Non preoccupatevi, è solo sonno arretrato. Quello stesso anno, Lelio ricomincia timido a riapparire sulle scene. In festa di compleanno su Telemonte Carlo, l'anno dopo a Domenica Inn, nel 94 a un Costanzo Show e infine nel 2006 è ospite d'onore della trasmissione di Fiorello Viva Radio 2, che nell'occasione va in onda contemporaneamente sia alla radio che alla televisione. Ritornato sotto i riflettori, gli sembra addirittura che il pubblico lo ami più di prima. Non c'era mica tanto. Io non mi ricordo di essere stato fermato per strada ad una... E più adesso, tre volte ho avuto lo standing ovation. Perché? Sempre per il fatto che la vitizzazione di una cosa lontana, di uno che è scomparso. Quello è molto importante, scomparire improvvisamente a 50 anni e ricomparire a 80. Lelio ci scherza ormai, quell'episodio è lontano. Nell'edizione di Sanremo del 2009 accompagna una delle giovani proposte, Arisa, che vince il primo premio della sua categoria. La canzone si chiama Sincerità, quella che forse avrebbe voluto trovare il maestro nell'ambiente dello spettacolo. Comunque sia ora, Lelio è tornato nella sua Trieste. È là che sente di appartenere. In fondo, dopo tanti anni vissuti nella capitale, torna alla sincerità delle sue origini. Sincerità, adesso è tutto così semplice. Con te che sei l'unico complice di questa storia magica. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.